البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو. Buongiorno Palestina. 146esima trasmissione su Radio Wombat. No Tel Aviv a Firenze. E questo è il titolo del volantino che riflette l'indignazione dell'ambiente universitario, studentesco e delle organizzazioni per i diritti dei palestinesi, provocato dalla presenza di un workshop dell'Università Israeliana di Tel Aviv che si è svolto a Firenze il 3 e 4 febbraio a Palazzo Alberti, sul tema come affrontare l'antisemitismo e creare la resilienza, e nel cui corpo docente hanno avuto la sfrontatezza di collocare perfino ufficiali dell'esercito israeliano come il colonnello Moshe Farki, responsabile della salute mentale nell'esercito israeliano, il dottor Moran Bodas, psicologo del Ministero della Difesa, e Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Dopo tutto quello che si sa delle torture e dei crimini che tale esercito ha compiuto a Gaza e quelli che sta compiendo in Cisgiordania, la presenza di relatori in qualità di sanitari rende ancora più grottesco il loro parlare di resilienza e salute mentale. All'accusa di crimini contro l'umanità, che Israele indica come antisemitismo, si risponde smettendo di compierli questi crimini e non, come ha fatto Israele, aumentando di 20 volte il budget della Sbara, la propaganda all'estero con cui forse è stato finanziato anche questo workshop fiorentino. L'iniziativa israeliana comunque si è trasformata in un autogol per gli organizzatori, perché a questa hanno reagito studenti, professori con lunghi elenchi di firme, organizzazioni, comunicati stampa, volantinaggi e un folto presidio davanti al Palazzo Alberti, di cui vi faremo ascoltare alcune voci. Per 5 giorni a Ginevra, sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono svolte manifestazioni da parte di sanitari per Gaza. Ne parliamo qui con Bahia, che ha fatto parte della nutrita delegazione italiana. Tregua a Gaza, ma squadrismo e devastazioni in Cisgiordania. Il modo in cui i giovani palestinesi in Italia stanno vivendo il momento attuale è lucidamente espresso dall'intervento di Sirin il 25 gennaio scorso, nell'occasione della giornata nazionale di manifestazioni in vista della giornata della memoria. Nella stessa giornata abbiamo apprezzato che a Firenze AMPI, Comunità Ebraica, e ANED, Associazione degli Ex Deportati, abbiano emesso un comunicato congiunto in cui ricordano un comune impegno antifascista e hanno aggiunto un severo monito alle organizzazioni, leggasi comunità ebraiche, nei luoghi quali Milano e Roma, dove ciò purtroppo non è avvenuto. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci come di consueto con la nostra rassegna stampa. In questi giorni, dall'inizio della tregua a Gaza, i media hanno dato grande risalto allo scambio di prigionieri avvenuto tra Israele e Hamas. Se da un lato i media mainstream hanno dato enfasi al rilascio degli ostaggi israeliani, altri media oltre a mostrare le scene di gioia delle persone in Cisgiordania al rilascio dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, hanno evidenziato anche aspetti che i media mainstream hanno ignorato. Nell'articolo pubblicato sul Palestine Chronicle dal titolo Combattenti di Hamas mostrano armi israeliane durante lo scambio di prigionieri a Gaza, si sottolinea come Hamas abbia lanciato un messaggio ben preciso ad Israele attraverso certi simboli. Durante lo scambio di prigionieri, alcuni combattenti delle brigate Al-Qassam impugnavano fucili Scorpion e Tavor in dotazione alle truppe d'élite dell'esercito israeliano che i combattenti avevano preso ai soldati in una imboscata in un tunnel nel maggio scorso a Jabalia. Le stesse armi erano ben visibili sul tavolo di consegna dei prigionieri a simboleggiare appunto le perdite israeliane. Tra i tanti palestinesi rilasciati con lo scambio, tra i più famosi, oltre a Khalida Jarrar, c'è anche Zakaria Zubeidi, più volte detenuto nelle carceri israeliane e che nel 2021 si rese protagonista di una evasione spettacolare dal carcere di Gilboa, che lo fece diventare un mito per la sua gente. Nell'articolo Solo l'unità nazionale ci darà la libertà e l'indipendenza, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, Michele Giorgio riporta alcune dichiarazioni che Zubeidi ha rilasciato in mezzo alla folla festante per il suo rilascio a Ramallah. La libertà per il popolo palestinese è strettamente collegata alla realizzazione di uno Stato indipendente, ha detto ai microfoni. Ha poi lanciato un appello all'unità nazionale palestinese. Se non saremo uniti, non riusciremo a realizzare i nostri diritti e il nostro Stato. Dobbiamo lottare insieme, ha affermato, in riferimento alla frattura che esiste da 18 anni tra Fatah e Hamas. Zakaria Zubeidi è stato uno dei protagonisti della seconda intifada come comandante della Brigata dei Martiri di Al-Aqsa a Jenin. In quel periodo ebbe, si dice, una relazione finita sui giornali israeliani con una pacifista ebrea, Tali Fahima, che le costò il carcere per collaborazione con il nemico. Da sempre Jenin è il cuore della resistenza in Cisgiordania. Lo dimostra il fatto che molte delle incursioni più violente dell'esercito israeliano avvengono qui. Da quando è cominciata la tregua a Gaza, a Jenin l'esercito israeliano ha ucciso più di 20 palestinesi, mentre decine di altri sono stati feriti e arrestati. Un aereo da guerra israeliano ha lanciato due missili contro una casa dopo l'annuncio dell'uccisione di un soldato e del ferimento di un altro, come riportato dall'articolo Tre morti nell'aggressione dello IOF a Jenin e Nablus, pubblicato su Infopal. Infine, concludiamo questa rassegna stampa con l'articolo pubblicato sull'Indipendente dal titolo La Svizzera come l'Iran? Giornalista palestinese arrestato senza accuse, ma nessuno dice nulla. Il giornalista Ali Abu Minah, attivista e cofondatore di Electronic Intifada, è stato arrestato a Zurigo per strada dopo che comunque gli era stato concesso di entrare in Svizzera perché doveva partecipare ad un evento sulla Palestina. Il giornalista è rimasto in carcere 3 giorni, privato della possibilità di comunicare con il mondo esterno, venendo poi interrogato dalla polizia in assenza dell'avvocata e accusato di violazione della legge svizzera, senza che venisse specificato quale crimine avesse commesso né che venissero elencate eventuali accuse. Alla fine è stato rilasciato ed espulso dal paese senza capi di accusa. Dopo l'arresto è sorto un forte moto di solidarietà nei suoi confronti. Amnesty International ha denunciato la forte repressione globale nei confronti di coloro che criticano le violazioni di Israele. Francesca Albanese ha affermato che il clima che circonda la libertà di parola in Europa sta diventando sempre più tossico. Dopo che è stato rilasciato, Abu Minah ha scritto: "Il mio crimine? Essere un giornalista che parla a favore della Palestina e contro il genocidio di Israele." Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Close your eyes to the things that you don't want to see. Close your heart to the things that you don't want to feel. Close the door to the people that you don't want to face. Close the window, cause it's such a vulnerable place. Close the pan before the people had a chance to eat. Close the lid on the story to appease the street. Close the border with an order to suffocate. Close the oxygen supply and then sit in. Is that a lie? Lies limiting our space. Also limits yourself. E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Come l'iniziativa di un workshop a Firenze sul tema dell'antisemitismo organizzato dall'Università di Tel Aviv si è trasformato in un autogol. Ascoltate le voci dal presidio. Oggi vie del centro bloccate e grandi forze di polizia nel centro di Firenze, tuttavia via dei benci non raggiungibile. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che un intero quartiere del centro storico di Firenze, un intero quartiere è stato totalmente militarizzato, sono stati creati dei checkpoint stile Israele, praticamente tutto questo appunto per difendere la presenza di un militare, un colonnello israeliano dell'IDF, dell'esercito israeliano, che viene a parlarci di antisemitismo. Ecco, ma di antisemitismo ha senso parlare a Firenze? Ci sono stati episodi di antisemitismo a Firenze, risultano? Allora, io sinceramente non lo so, ma magari non è nemmeno questo il tema, perché il tema per parlare di antisemitismo non inviti un militare di uno Stato che sta commettendo genocidio, che pratica apartheid, che l'antisemitismo l'ha sempre usato come arma per opprimere un altro popolo, ma inviti uno storico della Shoah, inviti uno studioso di antisemitismo, non inviti un militare assassino. Grazie. Ecco, qual è la reazione nell'ambiente studentesco all'annuncio di questa iniziativa dell'Università di Israele qui a Firenze? Si è sensibilizzata, si sono sensibilizzate le persone? Allora, diciamo che abbiamo provato a far girare appunto la voce per quanto riguarda appunto gli accordi che ha sempre avuto UNIFI con le università di Israele, soprattutto l'università di Tel Aviv, e c'è sempre stato una certa vergogna nel dover nel fatto che comunque l'università della nostra città vada a sostenere in questa maniera un genocidio, e quindi c'è, nel senso, c'è stato anche molto imbarazzo e scalpore nel sapere questa cosa, e soprattutto dopo l'annuncio di questo workshop siamo rimasti anche quasi scioccati dal fatto che comunque l'UNIFI, nonostante abbia fatto la storia Instagram dicendo che non era d'accordo che il suo nome venisse messo, ha sempre comunque mantenuto questi accordi con Israele, che da mesi noi scendiamo in piazza, anche noi studenti del liceo scendiamo in piazza per dire no a questi accordi, per dire stop al genocidio e appunto alla complicità dell'UNIFI in questo genocidio. Grazie. Ecco, e l'ambiente universitario come ha reagito a questa intromissione dell'Università di Tel Aviv? Ma eravamo sconcertati a vedere il logo dell'università, il logo del mio dipartimento, for l'ILPSI, per questa iniziativa, con militari israeliani che osano parlarci di trauma e di emergenze mediche quando hanno ucciso circa 20.000, forse di più, bambini, eccetera. E quindi non solo gli studenti, i docenti, ma anche la rettrice e la direttrice si sono agiti, hanno fatto togliere il logo, si sono disassociati, hanno detto che l'università e il mio dipartimento non c'entrava niente con questa iniziativa, e diciamo che c'è un po' di scontezza con questa docente. Io non vorrei essere nei panni di questa docente che ha messo il logo senza avere autorizzazione per questa iniziativa offensiva per Firenze, città operatrice di pace. Ma Firenze merita una lezione sull'antisemitismo? No, assolutamente, credo che sia proprio una vergogna immane vedere addirittura proteggere dei criminali di guerra da parte delle forze dell'ordine. È proprio una vergogna, non ho altre parole da dirti sinceramente. E ascoltiamo Karem in una seconda intervista che non è potuta andare in onda nella trasmissione precedente per mancanza di spazio, un'intervista sulla situazione fiorentina e su Carrai. Stamattina ho ascoltato Dimitri che in Consiglio Comunale lunedì appunto si è lamentato giustamente dicendo che la Funaro non ha risposto al gruppo Firenze per la Palestina, a tutte le manifestazioni che stiamo facendo. Abbiamo mandato una lettera perché lei intervenga in qualche modo, rimetta, perché magari non ha mai messa la bandierina della Palestina su Palazzo Vecchio. Sarebbe auspicabile. Io, per quanto mi riguarda, questa è una cosa, noi palestinesi il sionismo ci segue da sempre, anche non ci segue solo in Palestina, ci segue anche qui a Firenze in particolare, segue, e a me ha seguito e a molti altri, nella figura di Marco Carrai, il console onorario di Israele, che è una persona potentissima che ora ha perso un po' il suo potere, ma prima letteralmente lui controllava schioccando le dita questura e procura. Quello continua a farlo, ora ha meno visibilità pubblica perché è diventato un paria, perché ha difeso Israele, ha difeso il bombardare gli ospedali, e ha avuto legami stretti con tutti i sindaci, tutti i consiglieri, tutti i cosi, tant'è che Nardella infatti era pesantemente filo israeliano, ha attuato insieme al questore, a Carrai, ha usato ammonimenti e strumenti non democratici per silenziare il dissenso. Secondo me Nardella è proprio andato oltre, perché usava veramente gli strumenti per difendersi da delle storie Instagram, dai miei messaggi, da delle roba che poi, vabbè, io non ne ho parlato nei miei social, però insomma la sua figura di merda. Ma sulle dimissioni di Carrai non ce la fa lui, perché lui poi è tutto. E la Funaro, secondo me, semplicemente prima che c'era questo sistema di potere, dove alla fine l'unica soluzione che avevi se entrava in politica era di seguire, di dare l'appoggio a Israele, di darlo per scontato, nel senso, poi sì, magari dire i palestinesi non devono soffrire, però Israele deve esistere per forza in questo modo, con i suoi valori, non si sa quali sono questi valori. Poi secondo me la Funaro, andrò, spezzerò una spada in favore della Funaro, nonostante l'abbia criticata più volte io. Nardella penso fosse proprio colluso col sionismo, perché aveva proprio degli interessi anche attraverso Carrai. Secondo me la Funaro un po' ci credeva e ora non ha gli strumenti per rielaborare una risposta diversa da quella di Israele, quindi semplicemente non dice niente. E questo però è un problema, cioè non è che l'assolve, certo, nel senso, deve informarsi. A un certo punto ti informi, perché è un problema che la società civile fiorentina ti chiede di affrontare, ti è una tua risposta, dai, poi può piacere o non piacere, esatto, però qualcosa, certo, dillo. Nardella almeno faceva schifo, però almeno aveva il buon gusto di dirlo, e quindi essere giudicato per lo schifo che diceva, perché è quello che fa, perché se no uno dice ma io non voglio dire la mia, allora non vai a fare il sindaco, e questo che rappresenta la comunità, ti esprimi su quella cosa, e quindi la comunità dopo decide se rivotarti o no, se li rappresenti o no, ecco. E questa cosa qui, la Funaro insomma, è stata un po' deficitaria dal punto di vista dell'amministrazione comunale di ora, sì, però per il momento, purtroppo sì. L'amministrazione comunale a Firenze era molto, e le istituzioni e anche la polizia erano molto molto molto infiltrati dal sionismo. C'era il questore di prima, Oriemma, era letteralmente Carrai lo chiamava e gli faceva fare un ammonimento a questo, e il questore lo faceva. Era una roba assurda. Sì, a me me ne sono arrivati due. Ah, ecco. Sì, sì. Ma poi sono arrivati, la Digos è entrata, a me no, per fortuna, ma è entrata nelle case di non so quanto. Carrai lì, sì, che i commenti Instagram li facevano, non è che denunciava per diffamazione perché si sentiva offeso e poi il giudice valutava. Chiamava il procuratore, il questore, e mandava la Digos a casa. Ci sono persone, veramente, cioè io ho letto alcuni dei commenti per cui sono entrati la Digos a casa, poi probabilmente verranno archiviati, perché un giudice che non è un deficiente o non è un dossierato da Israele archivierà, e alcune sono già state archiviate, dove i commenti dicevano perché questo non si dimentica dalla Fondazione Harrai, perché dalla Fondazione Meyer, perché è il console di Israele, un paese che ammazza bambini, e questo e poi è nella fondazione di un ospedale pediatrico, sì, esatto, tant'è che esatto, Sanitari per sì. Gaza ha raccolto 12.000 firme, non è una roba che si chiede, è una roba che chiedono i medici, i sanitari, cioè, che lavorano in queste strutture sanitarie fiorentini, quindi è, insomma, un po' inopportuno che non si esprima anche la politica e gli dica levati dal carro. Sì, tutto ha fatto una brutta figura anche la nostra forza di polizia, nei loro rappresentanti come questore e procura, che veramente si sono soggettati a carai, che poi può essere potente a tutti pare, ma è un personaggio veramente, non voglio dire troppe cose, però è un personaggio veramente discutibilissimo, il fatto che si siano arrivati a queste posizioni di potere prendendo ordini da questo soggetto, insomma, un pochino triste, diciamo questo. تراب اليوم نسقيه بدموعه ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبي وزنبو يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين فينا وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا وشكو اللي بينا والله ما توحش ناس اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Avete ascoltato le voci dal presidio come reazione all'affronto fatto a Firenze da parte dell'Università di Tel Aviv. Ascolterete ora un rapporto sulle 5 giornate di Ginevra organizzate da Sanitari per Gaza. Radio Wombat, buongiorno Palestina. Nei giorni scorsi si è svolta a Ginevra una manifestazione internazionale presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ne parliamo con Bahia Kiki di Sanitari per Gaza, che è medico ospedaliero di ritorno da Ginevra, e le chiediamo quali sono stati gli obiettivi di questa manifestazione. Allora, per la precisione, l'azione che è stata svolta a Ginevra dal 25 al 29 gennaio scorso non si è potuta svolgere davanti all'OMS come inizialmente richiesto, ma si è svolta nella piazza La Place des Nations di fronte alle Nazioni Unite. L'iniziativa è stata chiamata La Grande Tenda Bianca e ha coinvolto i sanitari, operatori sanitari provenienti da 30 paesi diversi. Era organizzata su 5 giorni, di cui il primo sabato ha visto lo svolgimento di una grande manifestazione che è stata in realtà chiamata da BDS inizialmente, poi alla quale gli operatori sanitari si sono aggiunti. La partecipazione quel giorno è stata estremamente importante, si contano dai 3 ai 5 mila persone e qualche centinaio di sanitario erano presenti. I sanitari, dicevo prima, sono arrivati da vari paesi. L'Italia ha partecipato fra gli organizzatori, Sanitari per Gaza era fra gli organizzatori, e ha avuto una buona partecipazione, eravamo tra 25 e 30 sanitari provenienti dall'Italia. Ecco, ma oltre ai sanitari, quindi parli di alcune migliaia di persone, quindi una cosa grossa, svizzeri per la maggior parte o provenienti anche da altre parti? Allora, è la manifestazione che ha visto questo coinvolgimento di diverse migliaia di persone, e quella era chiamata da BDS già prima dell'organizzazione della Grande Tenda Bianca, e ha visto la partecipazione di principalmente di svizzeri, di organizzazioni svizzere, oltre a BDS, e visto che noi operatori sanitari stavamo quel giorno cominciando ad arrivare, perché la nostra iniziativa iniziava il 25, eravamo noi sanitari provenienti da diversi paesi, però la partecipazione, diciamo, principale era di svizzeri inizialmente. Ecco, dunque, quindi grande manifestazione il primo giorno, e nei giorni seguenti che tipo di attività avete svolto? Allora, i giorni seguenti sono stati organizzati vari workshop per discutere di questioni che riguardano gli operatori sanitari in Palestina. Come sappiamo, oggi sono stati uccisi oltre 1000 operatori sanitari a Gaza, uccisi intenzionalmente per il fatto che sono degli operatori sanitari. È stato volontariamente colpito il sistema sanitario di Gaza, sono state bersagliate ambulanze, c'è stato anche un report della Commissione Europea per i diritti umani su questo, sull'attacco volontario del sistema sanitario di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Quindi si sono appunto svolti diversi workshop informativi, ci sono stati vari interventi da ciascun rappresentante delle varie organizzazioni di operatori sanitari. Come dicevo prima, eravamo provenienti da vari paesi, quindi ognuno di noi ha preso la parola, ci sono state diverse conferenze stampe, e questo si svolgeva sulla piazza di fronte alle Nazioni Unite, dove sono state montate delle tende, venivano montate dalla mattina alla sera queste tende, e tutto si svolgeva lì, e quindi le persone potevano venire, ascoltare. Ecco, avete avuto problemi con la polizia locale? La polizia locale era completamente assente, non ho visto nemmeno durante la manifestazione, c'era una o due moto che passavano a guardare, ma c'è stata veramente pochissima presenza di polizia. In compenso abbiamo percepito il netto sostegno della popolazione locale, quando passavamo ci suonavano un segno di sostegno, è stato veramente molto bello il clima che si è svolto durante la manifestazione del sabato. Nei giorni successivi è stata una cosa più piccola, ovviamente, perché era principalmente fatta da sanitari, quindi qualche centinaio, perché i primi giorni eravamo più numerosi e poi piano piano qualcuno ha dovuto rientrare per impegni anche lavorativi, quindi la presenza è stata più ridotta, però è stata anche molto intensa. Perché ecco, poi questi workshop hanno dato luogo a dei documenti? Allora, più che workshop, c'è stato poi una delegazione che è stata ricevuta all'interno delle Nazioni Unite dal Junior Officer della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, quindi per due giorni consecutivi una piccola delegazione di sanitari ha potuto entrare e condividere le richieste che emergevano da questa azione degli operatori sanitari. Fra le richieste ovviamente c'è il mantenimento del cessate il fuoco, la liberazione degli operatori sanitari attualmente detenuti, perché ho parlato di un migliaio uccisi, ma sappiamo che ce n'è almeno un centinaio attualmente detenuti, su alcuni è stato riportato l'uso di torture, e quindi una delle richieste era appunto il rilascio degli operatori sanitari attualmente detenuti, l'apertura di corridori umanitari in maniera da poter far entrare gli aiuti e poi il sostegno alla ricostruzione del sistema sanitario di Gaza, che attualmente è in ginocchio. Ricordiamo che su 36 strutture inizialmente presenti a Gaza ne è rimasta mezza in piedi e periodicamente viene ribombardata o viene nuovamente attaccata. E infine è stata anche chiesta la fine dell'occupazione dell'apartheid. Tutte queste nostre richieste sono state accolte. Ovviamente sappiamo tutti che il Junior Officer della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha solo un ruolo di poter emettere raccomandazioni, non hanno di fatto nessun ruolo diciamo attivo, concreto. In conclusione, ritieni che gli obiettivi della manifestazione e dell'iniziativa siano stati raggiunti e che sia stato un fatto positivo? Ritengo assolutamente che questo che questa azione sia stata positiva, perché abbiamo potuto conoscerci, tante organizzazioni, network si erano creati nell'ultimo anno per manifestare la nostra indignazione di fronte a quello che sta succedendo a Gaza, ai nostri confratelli e consorelle e alle nostre pazienti. È stata l'occasione appunto di conoscerci di persona, perché sono diversi mesi che lavoriamo insieme ma sempre a distanza. È stata creata la Health Worker Alliance for Justice, abbiamo dato anche un nome appunto alla nostra, al nostro lavoro insieme, e intendiamo portare avanti nel futuro prossimo le nostre richieste e concretizzare quello che abbiamo cominciato. Quindi è stato, diciamo, un punto di partenza di qualcosa che sicuramente non finirà qui. Ecco, i giornali svizzeri hanno pubblicizzato l'iniziativa, ne hanno parlato? Allora, per quanto riguarda la stampa, fa bene a sollevare la questione, perché è uno dei punti dolenti, nel senso che nonostante avessimo cercato di informare la stampa italiana, francese, inglese, ognuno localmente ha provato a cercare di informare sull'iniziativa, pochissima stampa era presente di fatto e pochissima stampa ha poi riportato l'evento. C'era Al Jazeera English, che ha intervistato, che ha fatto un piccolo reportage, poi ci sono stati degli articoli su giornali svizzeri. A mia conoscenza non c'è stato molto di più. Beh, questo è il solito andazzo della stampa italiana. Assolutamente. Questo lo conoscevamo. Bene, ti ringrazio, Bahia. Avete ascoltato Bahia sulla manifestazione internazionale di sanitari per Gaza a Ginevra. Ascoltate ora come il momento attuale viene considerato dai giovani palestinesi in Italia. Chiaramente esposto dall'intervento di Sirin alla manifestazione del 25 gennaio a Firenze, due giorni prima del giorno della memoria. Non c'è nulla di sorprendente in quello che continua a accadere. Violazioni su violazioni, massacri su massacri, che si tratta di Gaza, Cisgiordania, Libano o Siria. Il sistema di oppressione si rinnova continuamente, ma noi continuiamo a resistere, a denunciare e a lottare. Abbiamo celebrato la vittoria della resistenza palestinese che, con coraggio e determinazione, è riuscita a piegare uno Stato sostenuto militarmente e finanziariamente dalle principali potenze imperialiste. è una vittoria di dignità contro un oppressore che sembra invincibile, ma la rabbia dell'oppressore si sta riversando altrove, soprattutto sulla Cisgiordania, nelle città che sono il cuore pulsante della resistenza. Ora più che mai dobbiamo essere vigili. La memoria è il nostro strumento più potente. Serve a ricordarci che quello che sta accadendo non deve essere mai più permesso. Eppure vediamo come la narrazione dominante tenta di insabbiare la verità, bombardando ospedali, uccidendo bambini, ma ci viene detto che ci sono altre priorità. L'orrore è relegato a un angolo di schermo, mentre si giustifica l'ingiustificabile, mentre si fabbricano menzogne per coprire un genocidio. Per più di 450 giorni abbiamo visto in diretta i peggiori massacri. Abbiamo visto sorelle e fratelli chiusi in quello che è a tutti gli effetti un campo di concentramento, bombardati come se non ci fosse un domani. Eppure, davanti a questo orrore, il mondo si gira dall'altra parte e si limita a piangere per un giorno, per poi trovare giustificazioni per chi compie questi crimini. Sappiamo bene cosa accadrà. Il 7 ottobre, così come l'abbiamo sempre detto, verrà celebrato come anniversario della resistenza e della lotta. Il giorno in cui la resistenza palestinese ha rotto il muro d'assedio di oltre 17 anni a Gaza, di tentativo di divisione della Palestina in Gaza e Cisgiordania. Ma oggi questa narrativa non basta. Oggi dobbiamo chiederci, ma per cosa diciamo mai più? Davvero mai più vale solo per alcuni? Ci chiediamo che limite c'è per rendere soddisfacente la definizione di genocidio? Quando vediamo il saluto nazista riproposto da Elon Musk davanti al mondo, quando tolleriamo parate fasciste nelle nostre città, cosa stiamo realmente ricordando? Qual è il limite per definire un genocidio? 1 milione di morti? 10 milioni? O dipende dal colore della pelle di chi viene sterminato? Non possiamo limitarci alla Palestina. La lotta è per tutti i popoli oppressi, in Palestina, in Congo, in Sudan e ovunque il genocidio sia la conseguenza diretta delle forze imperialiste. Noi siamo qui per dare voce a chi viene soffocato, perché la memoria non è solo un archivio, la memoria è un'arma, è uno strumento per costruire un futuro diverso, dove il genocidio venga riconosciuto, combattuto e fermato. Mai più per tutti, aggiorniamo la memoria, il genocidio è adesso. Palestina libera! الغرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلب انا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيك الغرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلب انا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل Il sindaco non risponde. Ascoltiamo l'intervento di Dimitri Palagi, capogruppo consigliare di Sinistra Progetto Comune, che lunedì 27 gennaio, giorno della memoria, è uscito dal consiglio comunale per ascoltare gli attivisti di Firenze per la Palestina che non erano stati fatti entrare in Palazzo Vecchio e rimasti nella piazza. Grazie Vicepresidente, grazie per gli interventi che avete fatto, proverò a spiegarvi come mai non sono riuscito ad ascoltarli tutti completamente con l'impegno a riascoltarli, anche perché con alcune persone di voi c'è un legame che va anche oltre questa seduta e quindi ci arriverò, ma oltre ad avere l'opportunità di stare in questo Consiglio Comunale già da 5 anni e poter partecipare a questa celebrazione, io ho anche la possibilità di insegnare storia in un centro di formazione professionale e la prima lezione che facciamo è sulla differenza tra memoria e storia, che è una cosa che io ho imparato, non sono sicuro ancora di averla parata fino in fondo, ma la memoria non è neutra, non lo è nemmeno la storia, ma la storia quantomeno è una disciplina, la memoria ha a che fare con il nostro vissuto e la nostra identità. E la memoria, per quanto ci riguarda, è anche la possibilità di non farsi raccontare. E quindi Lealtà Azione sabato ha provato a organizzare una passeggiata nostalgica revisionista. Per fortuna Firenze Antifascista, insieme a tante altre realtà, con il coinvolgimento anche di Ampi, c'è stato chi ha risposto. E chiaramente questo non toglie che la memoria di chi ha magari nonni, bisnonni fascisti sia una memoria diversa. Non si può cancellare questo. Noi scegliamo di ricordare una memoria specifica, che è una memoria che ripudia la guerra come la Costituzione e che nel giorno della memoria si concentra su quelli che sono stati i campi di concentramento. Uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato ricorda chi ha liberato i campi di concentramento, perché uno dei simboli che io ho qua, che è la falce e il martello, rischia di essere messo al bando in Unione Europea. Sappiamo che non è così, ma è già il secondo passo dopo le cooperazioni tra nazismo e comunismo. E quindi negare quei simboli che comunque, al di là di quelli che sono state le esperienze del socialismo reale, le esperienze di potere, sono simboli che hanno rappresentato anche la liberazione, soprattutto nella città di Firenze, dove il primo sindaco apparteneva al Partito Comunista Italiano, eletto democraticamente. E quindi la memoria non è neutra, perché ciò che dico adesso non cancella la memoria di chi vive nei paesi dell'est europeo ed è cresciuto con generazioni cresciute in nome di un nazionalismo che noi credevamo essere superato, dove l'omogeneità del popolo rispetto alla lingua parlata è tornata a essere un valore anche in partiti che stanno nel Parlamento europeo. E quindi io penso che si debba dire che la memoria non è neutra e che è un atto politico ricordare, che sia positivo che non necessariamente ci sia unanimità, che le ritualità devono avere un valore anche per far esprimere le differenze. E quindi io oggi, con dispiacere, non ho potuto ascoltarvi completamente, perché si dice, anche all'interno delle discipline storiche che ho studiato meno di altre persone che sono qua, ma la memoria serve anche ad agire. E quindi io penso che sia un po' strano che oggi questo ricordo è stato fatto con alcune cittadine e cittadini di Firenze per la Palestina, che si concordi o meno con le posizioni loro hanno, non hanno potuto nemmeno ascoltare questo Consiglio Comunale. Lo potranno riascoltare su YouTube, ma non potevano entrare, stavano fuori in piazza, per fortuna almeno non pioveva, e provavano a fare una riflessione che ha una sua attualità, perché ogni giorno della memoria, soprattutto rispetto a quello che sta succedendo adesso in Palestina, ha a che fare col genocidio. E il genocidio è una cosa diversa dall'antisemitismo. Sono cose diverse. L'antisionismo è diverso dall'antisemitismo. La possibilità di studiare la specificità della Shoah non vuol dire in nessun modo sminuirla. Il genocidio ha a che fare col diritto internazionale, quindi queste cose si possono dire, se ne può discutere. E io penso che rimuoverlo non faccia bene, perché nelle mie classi io ho presente quanto l'antisemitismo sia presente, così come l'islamofobia. Quindi ci sono delle pulsioni che si legano alla cronaca dell'attualità, perché la memoria è nel presente. Ricordare ciò che è accaduto senza ricordarsi quello che sta accadendo nel tempo presente non fa bene alla politica e non fa bene alla vita democratica che ci è stata data, perché la democrazia in cui noi siamo è quella che ci permette di esprimerci, è quella che ci permette di confrontarsi, è quella che permette di esercitare pensiero critico, perché non è che la minoranza del passato esercitava pensiero critico e necessariamente il pensiero della maggioranza di oggi va sempre bene. Altrimenti siamo incoerenti tra ciò che poi diciamo e ciò che facciamo. E quindi io penso che sia fondamentale il lavoro che fate, il lavoro che viene fatto delle scuole, il lavoro dell'università, il lavoro dell'AMPI, il lavoro dell'ANED, il lavoro di tutte le associazioni, perché non si fanno raccontare dal potere, che è quello che penso sia una grande lezione che nel Novecento abbiamo imparato, e c'è sempre bisogno di stare dalla parte di chi lo subisce il potere in maniera anche brutale e magari anche in maniera legittima in termini di legge, ma illegittima sul piano dei diritti umani e dei diritti delle persone. Quindi io mi scuso con voi, penso che noi oggi dobbiamo chiedere scusa come Consiglio Comunale a Firenze per la Palestina, anche se ringrazio i vicepresidenti del Consiglio che si sono affacciati, così come le consigliere e consiglieri che si sono affacciati oggi in piazza. لو مرة بس تخفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاحي لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بأغلى ممتلى كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي نالو من طلوعك وأنا كارثة الحزن اللي بخاطري يمكن إذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب طول مليك المعتدي يا دمع أنا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت ضحى طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح لما الحزن بالعشق عشق جوز كيف الحزن بغلى وطول يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب مبشعل دموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت تخطف منك مستقبلك امك وابوك وكل اللي بتحبهم وبيحبوك ما سألوك مش ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تكون شايل هم منك ما تقوم بس قوم وانا اخوك يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك يا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب ما سألوك مش ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تكون شايل هم منك ما تكون Come avrete saputo, pochi giorni fa Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni sono stati arrestati in Cisgiordania, nei territori occupati da Israele. Dopo alcune ore in caserma e dopo lunghi interrogatori sono stati rilasciati. Con loro si trovavano anche altre persone, tra cui una neozelandese e un palestinese. Luisa Morgantini, 84 anni, è una voce celebre del pacifismo italiano, è stata eurodeputata di Rifondazione Comunista ed ex vicepresidente dell'Europarlamento. In questi giorni si trova in Palestina, in una zona a sud di Hebron, a Massafra Yatta, dove i 20 villaggi palestinesi sono da decenni oppressi da Israele, che ha un progetto illegale di trasformare tutta quella zona in area militare. Ascoltiamo Luisa Morgantini da Ramallah in una recentissima intervista di Internazionale anche sulla liberazione dei prigionieri palestinesi. Il 20 gennaio Israele ha scarcerato 90 prigionieri palestinesi, poche ore dopo che Hamas aveva liberato 3 ostaggi israeliani. Centinaia di persone in festa hanno accolto gli autobus che trasportavano le persone rilasciate, la maggior parte donne e minori, lungo la strada tra Beituni e Ramallah, in Cisgiordania. Grazie a Dio sono di nuovo con loro, dice nell'audio che avete ascoltato una prigioniera liberata abbracciando le sue figlie. Spero che presto ci ricongiungeremo anche con il loro padre e che la gioia si diffonda nelle case di tutti i prigionieri. Il 21 gennaio, nel terzo giorno del cessate il fuoco a Gaza, Israele ha annunciato di aver lanciato un'operazione antiterrorismo a Jenin, in Cisgiordania, dove anche nelle scorse settimane sono state condotte numerose operazioni dell'esercito. Ne parliamo con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, che è stata vicepresidente del Parlamento europeo e che abbiamo raggiunto a Ramallah. Sì, sono state liberate e non c'è dubbio, io ero a Betunia ad aspettare l'autobus che arrivava, è stata una gioia immensa, ore e ore di attesa, sono arrivate le prime donne liberate. Però l'altro ieri, subito, nella Cisgiordania, a Calchilia, Betunia e in altre città della Cisgiordania hanno arrestato molto più di 80-90 persone, e oltre ad avere dato fuoco a proprietà private a Calchilia. Il clima è stato fantastico, devo dire che è pieno di giovanissime Betunia, in attesa delle prigioniere liberate. Quando sono arrivate è stata una gioia di pressione. La gente ha atteso, naturalmente Israele come al solito ha ritardato, ha fatto aspettare. E che differenza anche con i 3 ostaggi israeliani, no? In tutto si è parlato, ma delle donne palestinesi, delle loro storie, mai. Ecco, di cosa erano accusate queste donne che sono la maggior parte delle persone liberate l'altro ieri? In realtà detenzione amministrativa, una cosa che Israele usa e che è considerata illegale da tutte le convenzioni, vengono arrestate, non hanno prove, non danno prove agli avvocati, non permettono agli avvocati di vedere, rinnovano questa detenzione senza avere mai fatto accuse precise per anni e anni anche. Ci sono centinaia, migliaia di palestinesi che sono stati in detenzione amministrativa anche per 6, 7, 10 anni. E quindi principalmente di questo. Qualcuno era accusato anche di connivenza con situazioni di militanza o detenzione militare, però principalmente tutte le più importanti, diciamo, che sono state rilasciate da Khalid al-Jarrah a Salma Sadat, non avevano denunce se non di far parte forse di un'organizzazione illegale come il Fronte Popolare, ma senza nessuna prova. Khalid al-Jarrah è appunto una delle prigioniere liberate, è una nota attivista e politica palestinese. Qual è la sua storia? Lei in realtà io la conosco dalla prima intifada, è sempre stata attiva, sì, è stata eletta tra l'altro parlamentare nelle varie elezioni legislative che ci sono state. È stata sempre incarcerata. Io ricordo che quando ero al Parlamento europeo, Israele impediva a Khalid al-Jarrah, che è malata da lungo tempo, di andarsi a curare in Giordania. Quindi in quel caso facemmo una grande azione e le fu permesso di andare a curarsi. Tra l'altro ha una storia di attivismo, una storia tristissima perché è stata incarcerata diverse volte e l'ultima volta che era stata incarcerata prima di questa, la figlia sua è morta di un infarto e non gli è stato permesso di andare al funerale da parte delle autorità giudiziarie israeliane. E questa volta è stata incarcerata senza prove, senza nessuna documentazione, sempre detenzione amministrativa, è stata incarcerata e tenuta in isolamento. Raccontava l'altro ieri, quando siamo andati a trovarla dopo la sua uscita dal carcere, di quanto fosse stato duro vivere in questa cella piccolissima con letto di cemento e che per respirare doveva distendersi per terra e cercare di prendere aria dal scarso pezzo di aria che arrivava dalla porta. Khalida è molto amata, è molto riconosciuta, è molto stimata. Dopo l'uscita al nuoto all'ospedale insegnava all'università di Birzeit, ora è uscita distrutta, anche se poi ieri l'abbiamo vista e non ha più i capelli bianchi, però il trauma è durissimo. Tu ti trovi a Ramallah adesso, che cosa sta succedendo lì e nel resto della Cisgiordania? Cosa hai visto in questi giorni? Guarda, in questi giorni io sono stata a Mastafariatta, nelle colline a sud di Hebron, dove i coloni armati in divisa, e sarebbe veramente importante chiedere che fossero disarmati, mentre invece oggi Trump ha chiesto addirittura di togliere le sanzioni ai coloni. Ho visto le aggressioni a Mastafariatta, perché è una zona in cui l'esercito vuole evacuare i pastori per mettere al suo posto l'addestramento militare. Sono stata nella Valle del Giordano, dove anche lì l'aggressione dei coloni è altissima. Cercano sempre di picchiare, bruciare, demolire proprietà palestinese, soprattutto di estendere le colonie, perché ormai girando per la Cisgiordania vedi una crescita infinita di quelli che sono considerate colonie illegali anche dal governo israeliano, che poi rubano costantemente terra ai palestinesi. Sono stata a Jenin, là dove in realtà nel campo profughi c'è stato anche un assedio da parte dell'autorità nazionale palestinese, ma Jenin è stato devastato dall'intervento dell'esercito israeliano, bombardato soproprattutto nel campo di Nur al-Shams. Israele in questi mesi ha bombardato, distrutto strade, odore di fogna dappertutto, l'elettricità non c'è. Quindi in Cisgiordania quello che sta accadendo è il progetto di far evacuare il più possibile palestinese da parte del ministro Smotrich. È stato detto molto chiaramente: dobbiamo annettere la Cisgiordania, e Trump temo che aiuti molto questo piano. Ha fatto un'azione non di cessate il fuoco, perché in realtà nella prima fase anche a Gaza Israele può bombardare, perché per 10 ore al giorno è scritto nell'accordo non si bombarda, ma poi Israele può anche fare in questa prima fase. C'è molta gioia e molto dolore per tutti quelli che stanno a Gaza, ma anche nella Cisgiordania c'è la paura di non sapere quello che succede. Le persone sono terrorizzate perché hanno visto che la comunità internazionale li ha totalmente abbandonati. La Corte Penale Internazionale chiede l'arresto di Netanyahu, e per esempio il nostro governo, con le parole italiane, dice no, l'immunità, mentre i giudici della Corte Penale dicono no, nella nostra sentenza non è prevista l'immunità. Netanyahu insieme a Gallan dovrebbe essere arrestato. In questa prima fase del cessate il fuoco saranno liberati circa 1900 palestinesi. Quando è prevista la liberazione dei prossimi prigionieri? E di quali prigionieri? Cosa sappiamo di come vengono scelti? La scelta è stata fatta da Hamas, che ha fatto il negoziato, ma Hamas ha fatto una scelta non di propri prigionieri, ma ha scelto di liberare i prigionieri che sono più importanti. Anche nella storia delle lotte ci sono persone, e sono tanti, 270, che hanno avuto sentenze a vita, e ci sono leader importantissimi come Marwan Barghouti, dove però Israele sta ancora discutendo e Hamas ancora sta discutendo della possibilità che Marwan Barghouti venga liberato. Marwan Barghouti è un leader molto amato, non corrotto, è di Fatah, ma ha sempre lavorato per l'unità. Quindi Hamas ha presentato una lista di persone, in primo luogo le donne e i giovani. Teniamo conto che Israele continua a tenere in carcere giovanissimi e minori con torture inenarrabili, e quindi la scelta è una scelta di leader, di persone che sono state arrestate, non hanno in realtà accuse di terrorismo, perché qui non è che sono terroristi quelli che arrestano, sono persone che hanno bisogno e chiedono la libertà. Si hanno arrestato, per esempio, tra le donne liberate, una delle donne, un avvocato, è stata arrestata perché aveva fatto un post su Facebook dicendo del genocidio a Gaza. Quindi la repressione in questi mesi è molto tremenda da parte di Israele, non solo contro i palestinesi, anche contro i giovani israeliani che si rifiutano di andare a servire nel servizio militare, che manifestano dicendo non in nostro nome questo genocidio, e anche loro vengono repressi e incarcerati. Grazie a Luisa Morgantini. Grazie a voi. Giulia Testa, che cura le pagine Corpo e Mente di Internazionale, racconta un articolo uscito sull'ultimo numero. Come per molte altre specie, anche la vita degli esseri umani è regolata dal giorno e dalla notte. Purtroppo però, a causa dell'illuminazione artificiale, sopra le nostre città le notti davvero buie non esistono più. Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Clajure, War Crime, Doc Jazz. A seguire avete ascoltato Rajin e poi Mautini nella versione dal video presentato a Ginevra dai sanitari per Gaza. Avete ascoltato poi Shirin in Kalam Eine, parlando con gli occhi, e subito dopo avete ascoltato l'Home Antibus, se solo una volta, e per finire di nuovo Mautini nella versione del coro dell'Istituto di Musica Edward Said a Gaza. Era questa l'ultima notizia e con questo ci salutiamo, vi diamo appuntamento al 19 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Jump, jump, jump.